Parigi, fine di gennaio 1813. Oh, finalmente! È arrivato da Stoccolma un corriere con delle lettere. Mamma cara, scrive Oscar. La sua scrittura è regolare, ormai ben formata. Tra 6 mesi avrà 14 anni. A volte mi viene da gridare per lo struggimento. Oh, quel suo collo delicato, brunotto, di bambino. Le fossette nelle braccine grasse. Ma così era tanto tempo fa. Adesso Oscar è un giovanotto, magro, angoloso, in un uniforme di cadetto svedese. Forse già si fa ogni tanto la barba, ma io non riesco ad immaginarmelo. Mamma cara, il 6 gennaio siamo stati ad un meraviglioso spettacolo al Teatro Gustavo III. Pensa, ha recitato una famosa attrice francese, Mademoiselle Georges, che una volta era scritturata al Théâtre Français e che poi ha dato rappresentazioni come invitata a Mosca. Ha fatto la parte di Maria Tudor e io ero in un palco con la regina, la principessa Maria Albertina e papà. Le signore hanno pianto tanto perché il dramma era terribilmente triste. Io non piango mai a teatro, neppure papà piange. Dopo la recita, papà ha offerto una cena a Mademoiselle Georges e la regina era di cattivo umore perché papà e l'attrice parlavano continuamente di Parigi e del tempo di una volta. La regina li interrompeva sempre, spesso ripeteva: "Il nostro diletto figlio Carlo Giovanni". Mademoiselle Georges ha riso tanto di questo. Poi da ultimo ha tirato papà la gran croce della Legion d'Onore che papà porta sempre e ha detto forte: "Generale Bernadotte, ritrovarvi qui a Stoccolma è per giunta figlio della regina di Svezia". Ecco, questo non me lo sarei mai aspettato. Allora la regina si è arrabbiata davvero, mi ha mandato a letto e si è ritirata con tutte le signore. L'attrice ha bevuto ancora caffè e liquori con papà e col conte Brahe. La damigella di corte Mariana Coscul, per la gran rabbia e per la gelosia, si è messa a letto con raffreddore e vi è rimasto un'intera settimana. Papà lavora 16 ore al giorno ed è assai malandato. La recita di Mademoiselle Georges è stata la prima rappresentazione a cui ha assistito da parecchie settimane. Risi e anche un pochino piansi. E provai una gran voglia di mettermi a letto con raffreddore per una settimana come Mariana Coscul. Mademoiselle Georges a Stoccolma. 10 anni fa Giuseppina smaniava di gelosia mentre il primo console giocava a rimpiattino nel suo gabinetto con questa nuova amante sedicenne. Giorgina la chiamava lui, Giorgina. Quando diventò imperatore la lasciò perché Mademoiselle Georges ride troppo. Il nostro diletto figlio Carlo Giovanni. Spero che abbia riso in faccia alla regina di Svezia. Questa lettera Oscar l'ha scritta all'insaputa del suo precettore, ripiegata più volte e firmata semplicemente il tuo Oscar. Nell'altro suo scritto mio figlio si esprime con parole più scelte. Mi informa così: una famosa scrittrice francese che è stata esiliata dall'imperatore dei francesi perché ha scritto contro il dispotismo è arrivata qui e viene spesso ricevuta da papà. Si chiama Madame de Staël e dice che papà è il salvatore d'Europa. Questa signora è molto grassa. Cancellato sopra sta scritto Florida e parla continuamente. Dopo le sue visite, papà ha sempre mal di capo perché papà lavora 16 ore al giorno e ha riorganizzato l'esercito svedese. Mademoiselle Georges, Madame de Staël, una granduchessa russa che aspetta. La seconda lettera di Oscar era firmata in piena regola: il tuo sempre amoroso figlio Oscar, duca di Södermanland. Cercai uno scritto di Giambattista. Ormai doveva avere ricevuto da un pezzo la mia lettera sulla visita e sull'offerta di Napoleone, ma non trovai che un paio di righe scarabocchiate in gran fretta. Mia cara piccola ragazzina, sono oppresso dal lavoro e scriverò più ampiamente tra breve. Grazie per la tua relazione sulla visita dell'imperatore. Risponderò all'imperatore, ma a mio occorre tempo. La mia risposta sarà rivolta non soltanto a lui, ma alla nazione francese e alla posterità. Non so perché voglia che io gliela faccia consegnare da te. Comunque te la manderò e mi duole di doverti procurare un'altra ora d'angoscia. Ti abbraccia il tuo Giambattista. Infine, dal grosso plico saltò fuori anche un foglio di musica. La prima composizione di Oscar, una danza popolare svedese. Cerca di suonarne la melodia. Giambattista. Stava scritto affrettatamente in margine, una melodia semplice che mi ricordava certi tempi di valzer. Mi sedetti subito al piano e la suonai più e più volte. Voglio diventare musicista oppure re, aveva detto così nella carrozza da viaggio che ci riconduceva a Parigi da Hannover. Perché re? Perché un re può fare molto bene, aveva risposto. Sì, Oscar, ma ci si può trovare anche di fronte a decisioni che spezzano il cuore ad un uomo e la spina dorsale ad un popolo. Compositore o re? Aveva ripetuto mio figlio. E allora meglio re, è più facile, avevo detto io. Rilessi le parole scarabocchiate in fretta da Giambattista. La mia risposta sarà destinata non soltanto a lui, ma anche alla nazione francese e alla posterità. Improvvisamente mi ricordai dello scarmigliato Monsieur Beethoven, a ricordo di una speranza che non è diventata realtà, aveva detto. Suonai e feci chiamare il conte Rosen. Il corriere aveva portato della posta anche per lui. Entrando, teneva ancora un fascio di lettere in mano. Buone notizie da casa, conte? Le lettere sono scritte con grande prudenza, madame. Non si può mai sapere se la polizia segreta francese lascia o no passare un corriere, ma tra le righe. Tra le righe? Tra le righe posso comprendere che gli alleati, la Russia, l'Inghilterra e la Svezia, hanno l'intenzione di affidare a Sua Altezza Reale la preparazione dei piani per la prossima campagna di guerra e l'Austria, che è rappresentata a Stoccolma dall'ambasciatore conte Nyberg, è esattamente informata e mantiene un atteggiamento assai favorevole ai piani degli alleati. Dunque anche suo suocero, l'imperatore Francesco d'Austria, scenderà in campo contro Napoleone. I territori tedeschi occupati stanno preparando una sollevazione, disse il conte Rosen. Soprattutto i prussiani vogliono marciare, oltre il Reno, naturalmente. I prussiani vogliono marciare sempre e sempre oltre il Reno. Mormorai distratta e pensavo anche suo suocero. I preparativi di questa che sarà la più grande spedizione militare della storia si stanno facendo adesso in Svezia in tutta segretezza, sussurrò il conte Rosen. La sua voce era addirittura rauca per la commozione. Torneremo ad essere una grande potenza e il figlio di vostra altezza, il piccolo duca di Södermanland. Oscar mi ha mandato la sua prima composizione musicale. La studierò e ve la suonerò questa sera, dissi. È una danza popolare svedese. Perché mi guardate in maniera così strana? Siete deluso di mio figlio? No, di certo, Altezza, al contrario, sono soltanto meravigliato, non sapevo affatto che. Non sapevate neppure che il principe erede è molto disposto alla musica? E tuttavia andate dicendo che la Svezia sta per ridiventare una grande potenza. Pensavo al regno che Sua Altezza Reale, il principe ereditario, lascerà un giorno a suo figlio. Le sue parole si incalzavano, precipitose. La Svezia ha scelto come successore al trono uno dei migliori condottieri di tutti i tempi. La dinastia Bernadotte restituirà alla Svezia il suo grado di grande potenza. Parlate come un libro di lettura per gli scolaretti, conte, dissi io disgustata. La dinastia Bernadotte. Ah, il vostro principe ereditario combatterà semplicemente in questa battaglia dei popoli per i diritti dell'uomo, che noi chiamiamo libertà, uguaglianza e fraternità. Per questi diritti egli ha combattuto 15 anni, conte Rosen. Perciò alle vecchie corti era stato soprannominato segretamente il generale Giacobino. E quando tutto sarà terminato e Giambattista avrà vinto questa guerra spaventosa per tutta l'Europa, si tornerà a chiamarlo così. Una volta. Mi interruppi perché Rosa mi guardava senza comprendere. Una volta un musicista, che non capisce nulla di politica, parlò di una speranza che non è stata esaudita, dissi alfine a bassa voce. Forse essa sarà ancora esaudita, almeno in Svezia, e il vostro piccolo paese tornerà ad essere una grande potenza, conte, ma in modo diverso da quello che pensate. Una grande potenza i cui re non faranno più guerre, ma troveranno tempo di scrivere poesie, comporre musica. Non vi rallegrate che Oscar scriva della musica? Ma Vostra Altezza è la donna più strana che io abbia mai incontrata. Questo vi sembra soltanto perché io sono la prima borghese che voi abbiate conosciuta da vicino. Mi sentii improvvisamente molto stanca. Voi finora non avete frequentato che la corte e i castelli dei nobili. Adesso siete aiutante della figlia di un negoziante di sete. Cercate di adattarvici, vero? Parigi, febbraio 1813. La lettera mi fu portata alle 7 di sera. Feci attaccare e pregai il conte Rosen di accompagnarmi. All'Hotel Dieu. Purtroppo il mio cocchiere svedese non è pratico, di Parigi. L'Hôtel Dieu è un ospedale. E poiché lui mi guardava sempre rigido, senza comprendermi, andate fino a Notre-Dame, è di fronte. Il lastricato delle strade, bagnato, scintillava di luci multicolori. Ho ricevuto or ora 2 righe dal colonnello Villat. È riuscito a caricare il figlio di Maria su un trasporto militare che è stato condotto all'Hôtel Dieu. L'ospedale deve essere spaventosamente gremito. Vorrei condurre Pierre a casa mia. E il colonnello Villat? Domandò Rosen. Non ha potuto venire a Parigi, è stato mandato in Renania. Cerca laggiù di ricomporre i resti del suo reggimento. Sono contento che sia sano e salvo, mormorò Rosen cortese. Non è sano. Soffre per le conseguenze di una ferita di fucile alla spalla, ma spera di rivederci. E quando? Boh, un giorno o l'altro, quando tutto sarà terminato. Che nome curioso, Hôtel Dieu. Perché? Albergo del Buon Dio. Un bel nome per un ospedale. Prima si sistemavano sempre i feriti in lazzaretti fuori della città, ma questa volta ne sono arrivati così pochi fino a Parigi che non c'è bisogno di lazzaretti. Li hanno semplicemente passati all'ospedale maggiore del comune. Ma devono esserci migliaia e migliaia di feriti. Dove si trovano? Oh, perché mi tormentate così? Avete già udito dire 100 volte che sono stati assaliti dai lupi, sepolti dalla neve? Singhiozzai. Vi chiedo perdono, Altezza. Provai vergogna. Non si sgridano gli aiutanti. Essi non possono difendersi. I superstiti sono stati dapprima trasportati in lazzaretti di fortuna a Smolensk e a Vilna o chissà dove. Poi sono arrivati i cosacchi. Nessuno sa che sorte abbiano avuto i feriti. Non c'erano più carri per trasportarli più oltre. Alcune migliaia si trovano in Germania. Soltanto un trasporto è arrivato a Parigi. Villat è riuscito, chissà come, a spedire Pierre con questo trasporto. Che cos'ha Pierre? Villat non ne parla, perciò non ho detto ancora niente a Maria. Ecco, qui è il Duomo, a sinistra c'è l'ospedale, cocchiere, il portone. Il portone era chiuso. Rosen tirò il cordone della campana. Finalmente la porta fu schiusa. Il portiere aveva un braccio solo, era un invalido delle guerre d'Italia, lo arguì dalle medaglie. Le visite sono proibite e la porta si richiuse. Bussate, conte. Rosen bussò, bussò forte e a lungo e finalmente la porta si socchiuse di nuovo. Io spinsi da parte Rosen e dissi in fretta: ho il permesso di visitare l'ospedale. Avete un lasciapassare? Domandò l'altro con diffidenza. Sì. Ci lasciarono entrare finalmente. Ci trovammo in un andito buio, rischiarato dalla candela che l'invalido teneva in mano. Il vostro lasciapassare, madame? Non l'ho qui, sono la cognata di Re Giuseppe. Egli alzò la candela e mi illuminò il viso. Capirete che posso avere il lasciapassare in qualunque momento, ma avevo tanta fretta che non ho potuto richiederlo. Vengo a portar via qualcuno, soggiunsi subito. E poiché l'altro non rispondeva, dichiarai un'altra volta: sono proprio la cognata di Re Giuseppe. Vi conosco, madame. Vi ho veduta spesso alle riviste, siete la marescialla Bernadotte. Oh, sia lodato Iddio, sorrisi sollevata. Avete forse servito sotto mio marito? La sua faccia rimase impassibile e tacque. Vi prego, chiamate qualcuno che ci conduca nelle corsie, dissi io dopo un po'. Ma quello non si muoveva, aveva un aspetto sinistro. Prestateci la candela, cercheremo di sbrigarci da soli, mormorai desolata. L'uomo mi porse la candela. Indietreggiò di un passo e scomparve nel buio. Udimmo soltanto la sua voce. Ah, la signora marescialla Bernadotte! Gracchiò ironico e sputò rumorosamente. Il conte Rosen mi prese la candela perché la mano mi tremava, convulsa. Dimenticate quest'uomo, dobbiamo cercare Pierre, dissi con fatica. Poi salimmo brancolando una larga scala. Rosen alzò il lume, un corridoio con molte porte. Le porte erano socchiuse, ne uscivano dei gemiti, qualcuno piangeva. Sospinsi in fretta la prima porta. Come un'ondata mi assalì il fetore, sangue, sudore, sterco. Mi feci forza e respirai forte per non crollare. I lamenti adesso erano vicinissimi. Qualcuno si lamentava ai miei piedi. Presi la candela da Rosen e feci lume ai due lati della sala dei letti e in mezzo una fila di sacconi di paglia. La fine della stanza sembrava essere molto lontana. Laggiù ardevano una candela e una lampada perpetua rossa. Al tavolo dove stava la candela una suora. Sorella! Ma la mia voce non superava i rantoli e i gemiti. Il lamento ai miei piedi non cessava. Sorella! Finalmente la mi udì, prese la candela e venne verso di me. Vidi un volto magro, senza espressione, sotto una enorme cuffia con le ali. Sorella, cerco un ferito che si chiama Pierre Dubois. Non parve sorpresa. Ah, oh, tutto il giorno vi sono delle donne davanti all'ospedale e chiedono di entrare per trovare i loro feriti o per averne notizia. Non ne lasciamo entrare nessuna. Non è una visita per le mogli, per le fidanzate, per le madri. Io sono autorizzata a cercare Pierre Dubois, insistetti. Non possiamo aiutarvi, ce ne sono troppi qui. Non ne sappiamo i nomi. Rispose, dolce e indifferente. Come farò a trovarlo? Singhiozzai. Non lo so, disse cortese la suora. Se avete il permesso di cercare, dovete cercarlo. Passate da letto a letto, forse lo troverete. Chiusi gli occhi per un momento. All'odore del sangue si mesceva il fetore dei vasi che stavano tra i letti e i sacconi. Mi scossi. Dobbiamo passare da letto a letto, disse Rosen. E andammo dall'uno all'altro letto, dall'uno all'altro pagliericcio. Illuminavamo tutti i visi. Incerta mi fermavo davanti ad occhi e nasi bendati. Guardavo a lungo le labbra morse a sangue. Forse... No, no, non è lui. Mi fermai davanti a un uomo che aveva, tra un respiro e l'altro, un singulto come quel generale Dufaux che era morto tra le mie braccia tanti anni fa. Vidi una bocca acerea, sorridere e passai oltre. L'uomo sorrideva perché era morto proprio allora. Il suo vicino spalancò abbagliato gli occhi, rischiuse la bocca per rivolgermi una preghiera, ma io ero già accanto ad un altro e non potei udire quella preghiera. Maria, questo è più di quanto possa sopportare una madre. Il penultimo letto, l'ultimo, e la porta. Cercate vostro marito, madame? Scossi il capo. Il lume della mia candela cadde su di un braccio abbandonato con una piccola ferita rotonda. L'orlo della ferita era circondato da chiazze. Si muovevano. Erano pidocchi. Queste ferite si richiudono da sole se i soldati ricevono di nuovo un vito sufficiente, disse la dolce voce della suora. Nella ritirata ne sono morti tanti di fame. Ma forse troverete quello che cercate, madame. Nel corridoio, Rosen si appoggiò ad un tratto alla parete. Sollevai la candela. Sulla fronte aveva delle goccioline di sudore. Si voltò in fretta, vacillò per un paio di passi e vomitò. Lo avrei confortato volentieri, ma ciò lo aveva messo in un imbarazzo terribile. Non mi restò altro da fare che attendere finché si fosse svuotato lo stomaco. Mentre aspettavo, notai una lampada perpetua, rossa. Lentamente mi avvicinai a quella luce. Ardeva davanti a una statua della Vergine. Era una Madonna senza pretese, senza arte, in veste bianco-azzurra, con guance tonde e rosse e occhi melanconici. Il bambino che la teneva in braccio era tutto roseo e rideva. Posai la mia candela sul pavimento e giunsi le mani. Da molti anni non avevo più fatto questo. La piccola luce rossa vacillava. Da tutte le parti giungevano lamenti. Io stringevo l'una contro l'altra le mani, udii dei passi alle mie spalle e sollevai la candela. «Chiedo umilissimamente perdono, Altezza», mormorò il mio giovane svedese mortificato. Gettai un ultimo sguardo alla mia Madonna. Il suo volto paffutello era tornato nell'ombra. «Noi mamme», pensai. «Noi mamme». Davanti alla porta seguente dissi: «È meglio che restiate di fuori, entrerò sola». Egli esitava. «Vorrei percorrere fino alla fine questo cammino con vostra altezza», disse. «Lo percorrerete con me fino alla fine, non dubitate, signor Conte», dissi con calma e lo lasciai. Avevo già illuminato i letti del lato destro. In fondo alla stanza sedeva una vecchia monaca e leggeva un libricino nero. Anch'ella mi guardò senza ombra di sorpresa. All'albergo del buon Dio non si conosce la sorpresa. «Cerco un certo Pierre Dubois», dissi, e udì io stessa quanto desolata fosse la mia voce. «Dubois? Mi pare che abbiamo due Dubois qui. L'uno mi prese per mano e mi tirò presso un saccone nel mezzo della stanza. Mi inginocchiai e illuminai una faccia consunta, circondata da ciocche di capelli arruffati, bianchi. I pugni ossuti premevano il ventre, le ginocchia erano sollevate. Esalava un fetore ammorbante. La salda mano della vecchia suora mi rialzò. Dissenteria maligna, come quasi tutti. Si sono nutriti di acqua, di neve, di carne di cavallo cruda. È il vostro Dubois? Scossi il capo. Ella allora mi condusse alla parete sinistra, all'ultimo posto. Mi accostai al capo del letto e feci lume. Gli occhi scuri erano spalancati e mi fissavano indifferenti. Le labbra screpolate avevano fenditure sanguinanti. Abbassai la candela. Buonasera, Pierre. Egli guardò fisso davanti a sé. Pierre? Non mi riconoscete? Certo, mormorò con indifferenza. Madame la Maréchale. Mi curvai sopra di lui. Sono venuta a prendervi. Andremo a casa in carrozza, Pierre, subito, da vostra madre. Il suo viso non mutò. Pierre, non siete contento? Nessuna risposta. Smarrita mi rivolsi alla suora. È questo il mio Pierre Dubois, quello che cerco. Lo vorrei curare e guarire in casa mia. Sua madre lo aspetta là. Ho giù una carrozza. Qualcuno potrebbe aiutarmi? I portantini se ne sono già andati. Dovete aspettare fino a domani, madame. Ma io non volevo lasciare lì Pierre un minuto di più. È ferito gravemente? Dietro l'uscio c'è il mio ai... c'è un signore che mi aspetta. Noi due potremmo sorreggere Pierre Dubois, purché possa scendere le scale. Poi... La monaca sollevò allora la mia mano che reggeva la candela. La luce cadde sulla coperta, là dove avrebbero dovuto esserci le gambe di Pierre. Era piatta, proprio piatta. Ho giù un corriere che ci può aiutare, dissi a stento. Torno subito, sorella. Una figura si staccò dalla parete presso la porta. Fate salire il nostro cocchiere, conte. Dovrà portare Pierre nella carrozza. Ecco, prendete la mia candela, portate qui tutte le coperte che abbiamo nella vettura. Poi attesi. Non poter camminare. Mai più, pensavo. Così è all'albergo del buon Dio. Qui l'uno impara a pregare e l'altro dà di stomaco. Tutto il mondo mi sembra un albergo del buon Dio e noi lo abbiamo reso così, noi madri di figli e voi figli di madri. Risuonarono dei passi. Feci entrare Rosen e il cocchiere nella sala. Vi prego, sorella, aiutateci. Dobbiamo avvolgerlo in coperte calde. Poi Johansson, spinsi un po' avanti il cocchiere, poi Johansson lo porterà giù. La suora sollevò Pierre per le spalle. Non poté opporsi. Gli occhi gli ardevano d'odio. Lasciatemi in pace, madame, lasciatemi! La suora sollevò la coperta. Io chiusi gli occhi e feci lume. Quando riaprì gli occhi, Pierre Dubois stava davanti a me come un fagotto legato. Qualcuno mi tirò per il mantello. Mi voltai. L'uomo nel letto vicino cercava di drizzarsi, ma ricadde subito, sfinito. Mi chinai su di lui. Madame la Maréchale, vi ha chiamato così, non è vero? Quale marescialla? Bernadotte, sussurrai. Mi fece cenno di avvicinarmi di più. Un sorriso ebete gli contraeva la bocca. Le sue labbra, arse dalla febbre, toccarono quasi il mio orecchio. L'avevo pensato. Ho visto dei ritratti una volta. Allora, portate al vostro signor marito, alla reggia di Stoccolma, il saluto d'un soldato della spedizione delle Alpi. Lottava per respirare. Dite al maresciallo di Stoccolma che le Alpi hanno dei burroni profondi e che lui non sarebbe mai uscito vivo di là, dalle Alpi, se avessimo saputo. Delle bolle di schiuma sanguigna gli tremolavano sulle labbra. Se avessimo potuto sapere che ci avrebbe fatti crepare in Russia. Un saluto, madame, da un antico camerata. Una mano protettrice si collocò sotto il mio braccio. Sia fatta la sua volontà, così in cielo, così in terra. Venite, madame. Il cocchiere sollevò l'involto che una volta era stato Pierre Dubois e che era partito ridendo come un bocciolo rosso di rosa nella canna del fucile per conquistare il mondo e lo trascinò fuori della porta. Il conte Rosen mi tolse di mano la candela e gli feci lume, ma io mi aggrappai come una bimba alla suora e mi feci condurre dalla vecchia giù per le scale. Ma voi Non siete più la maresciala Bernadotte? Non siete la principessa ereditaria di Svezia? Domandò a un tratto. Io singhiozzai. Andate con Dio, figlia mia, e col vostro popolo cercate la pace. Poi lasciò andare il mio braccio. L'invalido aprì in silenzio la porta. Johansson gemeva sotto il suo carico. Io mi voltai per baciare la mano della monaca, ma ella già era sparita nel buio. Il conte Rosen sedette sul sedile posteriore. L'involto che una volta era stato Pierre Dubois stava accanto a me. Tastai le coperte e cercai la sua mano. Era fredda e inerte. Così riportai a Maria suo figlio. Parigi, primi di aprile 1813. Tra mezz'ora gli parlerò per l'ultima volta in vita mia, pensavo mentre mi davo un po' di crema d'oro sulle palpebre. Poi questa lunga familiarità che è cominciata come primo amore sarà finita. Mi sono truccata le labbra col rosso ciclamino cupo e mi sono messa il cappello nuovo con un nastro rosa legato sotto il mento. Un cappello alto e stretto che neppure so con certezza se mi stia bene. Poi mi sono guardata lungamente nello specchio. Così dunque lui mi ricorderà. Una principessa ereditaria dalle palpebre dorate, con un abito di velluto violetto, un mazzolino di viole pallide nella scollatura e un cappellino di nuovo modello col nastro rosa. Udii nella stanza attigua il conte Rosen domandare alla La Flotte se finalmente ero pronta. Mi assestai le violette. Tra mezz'ora i rapporti personali col mio primo amore saranno cessati. Ieri sera un corriere di Stoccolma mi ha portato la risposta di Gian Battista a Napoleone. La lettera di risposta era suggellata, ma il conte Brache ne aveva unita una copia per me. Il conte Brache mi faceva anche sapere che questa lettera del principe ereditario di Svezia a Napoleone sarà distribuita per la pubblicazione a tutti i giornali. Rilessi la copia per l'ultima volta. I dolori del continente invocano pace. E Vostra Maestà non può respingere questa invocazione senza decuplicare la somma dei misfatti che già ha commessi. Che cosa ha ottenuto la Francia in compenso dei suoi enormi sacrifici? Nient'altro che gloria militare, lustro esteriore ed effettiva infelicità entro i confini dell'impero. E io devo consegnare a Napoleone questa lettera. Una cosa simile non poteva capitare che a me. Lo sgomento mi invadeva tutta mentre continuavo a leggere. Io sono nato nella bella Francia che voi governate. Il suo onore e il suo bene non potranno mai essermi indifferenti. Ma pur senza cessare di pregare per il suo bene, io difenderò sempre, con ogni mezzo, il diritto di questo popolo che mi ha chiamato e l'onore di quel sovrano che ha voluto riconoscermi come suo figlio. In questa lotta fra la tirannide universale e la libertà, voglio dire agli svedesi, io combatterò con voi e per voi e tutti i popoli che amano la libertà benediranno il nostro proposito. Per quanto riguarda la mia personale ambizione, essa è di questa natura. Io sono ambizioso, ambiziosissimo anzi, ma ambizioso di servire gli interessi dell'umanità e di raggiungere e assicurare l'indipendenza della penisola scandinava. Questa lettera che Gian Battista ha rivolto non soltanto a Napoleone, ma anche alla nazione francese e alla posterità, terminava con una frase molto personale. Prescindendo dalla risoluzione che voi prenderete sire, o per la pace o per la guerra, io conserverò sempre per vostra maestà la devozione di un antico compagno d'armi. Posai di nuovo la copia della lettera sul comodino e mi alzai. Il conte Rosen aspetta. Io ho appuntamento per le 5 pomeridiane alle Tuileries. Già nei prossimi giorni l'imperatore entrerà in campagna col suo nuovo esercito. I russi avanzano, i prussiani si uniranno a loro. La decisione di Napoleone è già stata presa da un pezzo. Presi la lettera sigillata e raddrizzai il mio alto cappello. Il conte Rosen indossava l'uniforme di gala dei dragoni di Svezia e la sciarpa d'aiutante. «Mi accompagnate per un duro cammino, conte», gli dissi mentre passavamo il Pont Royal. «Dopo quella notte dell'ospedale regna tra noi una strana confidenza. Probabilmente perché ero presente quando lui ha dato di stomaco. Sono cose che legano assai più di quel che non si creda. Eravamo in una carrozza coperta, c'era odore di primavera. L'aria si colorava di un azzurro profondo che ammorbidiva tutti i contorni. Questa sarebbe l'ora per un convegno, pensavo, per un rapido e segreto convegno per il quale una donna si è appuntata al vestito un mazzolino di viole e si è comprata un nuovo cappello. Invece, io dovrò consegnare all'imperatore dei francesi una lettera del principe ereditario di Svezia diretta ai posteri e subire un'esplosione d'ira napoleonica. È un peccato in questo dolce tramonto. Non ci fecero attendere un solo minuto. L'imperatore ci ricevette nel suo gabinetto grande. Erano presenti Caulaincourt e Meneval. Il conte Talleyrand stava alla finestra e si voltò soltanto quando io avevo già percorso metà della strada verso il grande scrittoio. Napoleone non pensò affatto a risparmiare al mio Rosen dai sonanti speroni e a me il ben noto e doloroso cammino dalla porta al suo tavolo. Indossava l'uniforme verde degli chasseurs. Stava in piedi, con le braccia conserte, davanti allo scrittoio, appoggiandovisi un poco, e mi guardò con un sorriso lievemente venato di disgusto. Io mi inchinai e gli porsi senza far parola il plico suggellato. La ceralacca scricchiolò. L'imperatore lesse senza batter ciglio. Poi porse i fogli coperti dalla fitta scrittura di Giambattista a Meneval. Passare una copia al Ministero degli Esteri. Conservare l'originale tra i miei documenti privati. E a me. Vi siete messa in gingheri, Altezza. Il violetto vi sta bene. In ogni modo, uno strano cappello. Si portano alti i cappelli adesso. Era peggio dello scoppio d'ira che mi aspettavo. Era derisione aperta. Derisione rivolta non a me, ma al principe ereditario di Svezia. Io strinsi le labbra. Napoleone si voltò verso Talleyrand. Voi vi intendete di belle donne, eccellenza, non è vero? Che cosa ne dite del nuovo cappello della principessa ereditaria di Svezia? Talleyrand teneva gli occhi socchiusi. Pareva annoiarsi oltre ogni dire. Napoleone si volse di nuovo verso di me. Vi siete fatta così bella per me, Altezza? Sì, maestà. E vi siete appuntata delle violette per portarmi questo? Aspirò con scherno attraverso le narici. Questa scartoffia dell'ex maresciallo Bernadotte? Le violette, madame, fioriscono di nascosto e hanno un dolce profumo, ma questo tradimento per cui già gongolano tutte le gazzette inglesi e russe hanno un fetore che sale fino al cielo, madame. Io mi inchinai. Chiedo di potermi congedare, sire. Non solo potete, ma dovete congedarvi, ruggì. O credete che ancora io vi lasci andare a venire a corte, mentre Bernadotte scende in campo contro di me e fa sparare cannonate sui reggimenti che lui stesso ha comandato in tante battaglie? E voi invece, madame, osate comparire qui, infiorata di violette? Sire, nella notte in cui voi siete tornato dalla Russia, mi avete insistentemente pregato di scrivere a mio marito e di portarvi la sua risposta. Ho letto la copia della sua lettera e sono persuasa che voi, sire, mi vedete ora per l'ultima volta. Le violette me le sono messe perché mi stanno bene. Forse conserverete così un buon ricordo di me. Sire, posso ora congedarmi per sempre? Seguì una pausa terribilmente penosa. Il conte Rosen era ritto dietro di me come una statua. Meneval e Caulaincourt fissavano stupefatti l'imperatore. Talleyrand aprì gli occhi con interesse. Napoleone era improvvisamente rimasto interdetto e si guardava inquieto intorno, come se cercasse qualche cosa. Prego questi signori di attendere qui. Vorrei parlare per un momento da solo con Sua Altezza Reale. Vi prego di seguirmi nel mio studio. Altezza, accennò ad una porta a muro. Meneval, servite ai signori un bicchiere di liquore.